responsabili per l'agricoltura che vengono designati sono sempre cacciatori abbastanza oltranzisti. Quello che di fatto è triste è che si caccerà tutta l'estate, quindi ci sarà gente in giro che spara mentre la gente va a fare le passeggiate, che rischierà quindi la propria vita come spesso accade in queste situazioni, molto spesso se non sempre una scusa per mandare le persone a caccia anche fuori periodo, per accontentare tutto questo gruppo di gente che ha solo questa idea fissa nella vita, cioè di sparare e uccidere. A questo punto è chiaro che la discussione non è nemmeno iniziata, io ho ribadito solo questi concetti, per il resto tutto a posto perché tutti andranno a sparare nelle nostre montagne e campagne da ora in poi per tutta l'estate. Per finire vi segnaliamo che domenica 9 giugno 2013 a Montaione, presso la tenuta Villa di Filicaia, in via Poggio all'Aglione numero 23, il centro di recupero Italian Horse Protection, del quale più volte vi abbiamo parlato, apre le sue porte durante il pomeriggio con visite guidate ai paddock per ammirare i suoi magnifici equini liberi e la giornata si concluderà alle ore 19 con un buffet. È una giornata benefit i cui proventi andranno a sostegno dell'associazione e delle sue molteplici attività. I bambini sotto i 10 anni potranno partecipare gratis. Per prenotazioni e informazioni vi do un numero di telefono, segnatevelo, è 320-812-8884. Ripeto, 320-812-8884, risponde Angela. C'è anche una mail senzabriglie@gmail.com e un sito internet www.horseprotection.it. Con Restiamo Animali ci diamo appuntamento a domenica prossima, il 9 giugno 2013, sempre alle ore 12 per la nostra versione di mezz'ora.